Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, si può fare, o almeno ci si può seriamente provare, parlo del Milan, che tra le 18 di sabato e le 20:45 di martedì si gioca la stagione, perché se partiamo dalla grande fatica di ieri sera per reggere a Barcellona e da un altro paio di pedine che hanno accusato ulteriori problemi fisici, cioè Nesta e Robinho, passiamo per Catania, dove il Milan troverà un caldo ancora più estivo di quello che già si avverte a Milano, e arriviamo al Camp Nou, dove grazie allo 0-0 di ieri potrà puntare a un non impossibile 1-1, magari 2-2 come nel girone. Beh, insomma, certamente la situazione è già più rosea di quello che si presentava alla vigilia, sapendo però in partenza che sull'erba di Barcellona la palla corre e si può anche provare a cambiare direzione in corsa, cosa che ieri sera era vietata su quel terreno sconcio che è da troppi anni ormai quello di San Siro, che è indegno di sfide a quel livello. Bentornato a Fabio Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Io direi un rapido bilancio di questa due giorni, di queste andate dei quarti di finale, partendo da un record assoluto. Hanno giocato in casa Milan, Marsiglia, Benfica e Apoel. È la prima volta da quando c'è la Coppa Campioni che una squadra di casa non segna nemmeno un gol. Sì, è una cosa molto curiosa, ed è curioso anche che tre partite su quattro abbiano visto la vittoria della squadra in trasferta e che tre sfide su quattro siano sostanzialmente ormai orientate. È evidente che APOR Real Madrid non fa molto testo e insomma si gioca per, come si dice una volta, per dovere di firma. Per quanto riguarda le altre, credo che il Chelsea partirà largamente favorito e anche Bayern e Marsiglia si giocherà come pro forma. È molto curioso, in nessuna delle quattro partite hanno segnato entrambe le squadre, resta una serie molto aperta che è quella che si immaginava potesse essere, cioè Milan-Barcellona. Devo dirti, non uno spettacolo eccelso in questi no. quarti di finale, perché anche la partita più attesa, cioè Milan-Barcellona, sostanzialmente dal punto di vista spettacolare è rimasta un po' sotto le attese. Marsiglia-Bayern di Monaco non è stata una bella partita, nemmeno le altre due, un po' perché il Real Madrid è troppo più forte dell'Apoel e un po' perché il Chelsea concede molto poco allo spettacolo. Che potrebbero aver preparato il campo a due grandi semifinali, cioè Real Bayern, cioè una grande novità del calcio europeo, e l'altra, quella tra il Chelsea, comunque una sopravvissuta del calcio inglese, e una delle due tra Milan e Barcellona. E quindi credo che potremmo definirli dei quarti di finale quasi interlocutori, in attesa, auguriamoci, di grandi semifinali. Senti, io credo fosse abbastanza inevitabile che su un campo, ripeto, come quello di ieri, alla fine i migliori fossero Ambrosini, direi, e Bonera da una parte. Anche Antonini, certo. Però a me ha molto colpito lo spirito di sacrificio, intanto il salto di qualità di Bonera di queste ultime partite. E, Antonini bravissimo nell'applicazione, Ambrosini eroico, secondo me, che è un aggettivo che non spendo mai, ma eroico addirittura per come si è dato dal primo all'ultimo secondo, ha commesso un errore solo in 90 minuti, regalando quella punizione su Messi quasi all'inizio della partita, quella su cui Messi è scivolato, no? A riprova del fatto che è dura giocare lì sopra. E dall'altra parte i migliori, Busquets, Piqué, che è tornato a giocare a un livello che quest'anno probabilmente non ha mai toccato, e comunque, diciamo, non no, dico i gregari per non mancare di rispetto a nessuno, ma insomma non certamente le stelle più attese. Proprio dici che la stampa spagnola questa mattina ha puntato molto pesantemente sul terreno di gioco, al punto che il Milan prenderà una sanzione intanto perché qualcuno ha giocato con i laser sia su Messi che su Victor Valdés, va bene, e la seconda invece sarà per lo sconcio del terreno di gioco, che non è degno, ormai l'abbiamo già ripetuto mille volte e sarà sempre così e non cambierà mai. Questo è un destino che non è né cinico né baro, sono soltanto 22 anni, d'altra parte, Fabio, bisogna dare il tempo, no, a queste povere società di Milano di organizzarsi un pochino, insomma, di bravo, perché loro aspettano la legge sugli stati, società comune, tutti responsabili, per tutti, carità, tutti, no? Tutti, dal primo all'ultimo. No, e in seconda battuta la stampa spagnola ha un po' puntato l'arbitraggio di Eriksson, accusato di essere stato di manica troppo larga nei confronti dell'intervento di Abbiati su Sanchez, soprattutto, cioè di essersi fatto convincere dall'assistente di porta a non non concedere il calcio di rigore. Ma perché Sanchez, sai perché secondo me? Perché Sanchez, rigore netto, ma Sanchez è passato per il campionato italiano e allora ha quella tendenza ad accentuare, a teatralizzare la caduta. Io credo che questo sia, potrebbe essere una chiave di lettura, una spiegazione, perché Sanchez cade sempre in maniera molto plateale anche quando lo fa cadere, come nel caso di ieri, perché Abbiati senza volerlo però certamente lo prende. Io chiuderei questo collegamento come è iniziato, e cioè t'ho detto sappiamo di questo Tour de Force del Milan che in sei giorni, ieri Catania e Barcellona, si gioca la stagione, campionato compreso, perché Catania è una partita molto dura per come sta giocando il Catania. Come è combinato in parallelo il Barcellona sabato? Il Barcellona intanto ha un problema, cioè che è ancora a Milano, oggi farà un po' di shopping in vari negozi di marchi che sponsorizzano Leo Messi e quant'altri, si allena a Interello, cioè il territorio dell'Inter dove si allena la primavera che fu di Stramaccioni, e partirà domani, e sabato dovrà giocare contro l'Athletic di Bilbao, e non è una partita di quelle proprio facili. E martedì aspetta il Milan, quindi credo che da un certo punto di vista si giochi di più il Barcellona, perché intanto è in casa contro il Milan e quindi avrà tutta l'attesa, il favore del pronostico, l'obbligo morale di passare questo turno, in più il rischio di non farcela contro l'Athletic di Bilbao e quindi di venire pesantemente penalizzato, con l'aggravante appunto di non preparare la partita nelle condizioni migliori, perché in questo momento il Barcellona non è già a Barcellona come accade normalmente dopo le partite di Champions. Certo. Normalmente si torna a casa direttamente la sera stessa. No, ma questa è sicuramente una complicazione. C'è il fatto che il Madrid gioca a Pamplona con lo Osasuna, sì, due ore prima del Barça, ed è una delle ultime trasferte difficili, se non proprio l'ultima per il Real. Quindi l'ultima sarà quella al Camp Nou, Gigi. Sì, certo. Però i punti sono sei, no? E quindi è una ultima occasione in cui puoi inciampare, a parte l'eventuale tostata del Camp Nou, e quindi io credo che Guardiola la formazione la deciderà alla fine del primo tempo o all'inizio del secondo del Real, e se Real vincerà a Pamplona potremmo vedere molti Teglio, no? Molti Fontas. A parte Gigi, che Teglio ieri ha quasi giocato meglio di Iniesta e non ha fatto sta gran fatica, no? No, perché no. Iniesta ieri era proprio male. In questo periodo, non solo ieri. No, è quasi tutta la stagione, insomma. Diciamo sotto il livello classico. D'altronde, Gigi, quando ti abituano a quei livelli lì, anche delle prestazioni umane come quelle di ieri sera, pur con un dominio nel primo tempo imbarazzante e quasi infastidente, sì, anche per l'inconcludenza, certo, no, complessiva, assolutamente. Ti abituano troppo bene. È per questo che il Milan, secondo me, ha un po' perso un'occasione. Poi poteva solo giocare così, non ne aveva più per osare ulteriormente, ma quando ti capita un'edizione, una versione così del Barcellona, forse qualcosina in più bisognerebbe provarlo, tentarlo, ed è quello, credo, che ha pensato in tribuna l'allenatore dell'Edil Nord, che poi alla fine non mi sembrava così entusiasta. Non era contento. No. Pare di no, perché... Va bene, Fabio, grazie e alla prossima settimana. Vorrei ricordare, scrive Mauro da Monza, che la prima partita che io vidi a San Siro era quella dello scudetto della Stella. Il campo aveva segatura nella parte centrale quasi per tutta la lunghezza e sono passati ben più di 22 anni. Beh, ne sono passati anche 32 di anni, perché era il 79 quell'anno lì. Siamo quasi a 33, se è per quello. Ma è un discorso lungo, cioè è un discorso che può fare chi a pallone ha giocato, chi se ne intende, insomma, che possono fare gli esperti veri, ma altro è un terreno che può essere un po' gibboso, può essere un po' irregolare, può avere fango, può avere, come ricorda lei giustamente, la segatura, la pula di riso. Allora le aree, c'era l'area del freddo, come la chiamava Brera, in cui era certamente più problematico giocare, ma quando ti si staccano le zolle sotto i piedi e ogni volta che tenti uno scatto o un cambio di direzione ti parte una zolla di sotto, quello è un terreno infame. non gli altri. Quello è un terreno che non dico rende irregolare la partita, ma la compromette sul nascere, mentre invece su terreni anche pesanti si può giocare a calcio in maniera divertente e spettacolare. Bruno, provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno, io ho seguito la partita, non essendo tifoso del Milan, no, neanche del Barcellona. Sono le partite che si seguono meglio perché si vedono con più obiettività, e parlando con poi i vari tifosi erano contenti del risultato del Milan, mentre secondo me avrebbero dovuto osare qualche cosa di più, anche perché loro dicono il risultato di 0-0 è comunque positivo per il fatto che si può sperare in due risultati utili, però è anche vero che il Barcellona, se preme un attimo su un acceleratore, uno o due gol li può fare tranquillamente. Sì, però in teoria li doveva fare anche ieri sera e poi invece non li ha fatti. Non solo, nella primissima parte il Barcellona ha anche queste, un altro motivo di speranza per il Milan, secondo me, sono queste partenze infelici del Barça, perché la seconda volta su tre con il Milan quest'anno, cioè da settembre a oggi, che parte regalando gol al Milan, nel senso che là poi c'era Pato che ha colto l'attimo, ieri sera c'era Robinho e prima di lui Boateng, perché Piqué è abbastanza bravo a murarlo, ma Boateng tarda un attimo a concludere, il minuto prima della ciccata di Robinho. E poi hanno lasciato ancora l'occasione a Ibrahimovic, vabbè, ma quella ci poteva stare, quella era uno sviluppo di gioco, mentre le prime due era proprio un caso di falsa partenza, esattamente come quella del Camp Nou. Si sbagliassero mai a farti un altro paio di regali del genere nella partita di ritorno, poi rimontare diventa dura, senza contare che lo 0-0 non è questo brutto risultato, perché se anche tu pigli un gol nella partita di ritorno, poi pareggiando li elimini, insomma, io non la vedo così semplice per il Barça. Massimo Brindisi, buongiorno. Buongiorno. Io prima quello che ha detto lei sulla versione del Barcellona di ieri sera era molto vulnerabile, secondo me, con una difesa imbarazzante, con un'Iniesta irriconoscibile. Nei primi minuti era difesa imbarazzante, dopo non ha più concesso nulla. Durante la partita forse il Milan non ha sfruttato alcune situazioni, ma la difesa del Barcellona ieri non mi dava garanzie di nulla. Una cosa vorrei dire, cioè, io sento sempre Tagliani che dice siamo il club più titolato al mondo, poi sento che si esalta per un pareggio fatto per il 70% della partita tutto in difesa, e da provincia Lotti, secondo me, cioè, il Milan di ieri doveva usare qualcosa in più, secondo il mio parere, e anche secondo il celebre tecnico delle Lille Nord. Infatti io credo che con quella formazione, con quelle assenze e davanti a Barcellona, io credo, e non solo, ma finendo sulle ginocchia già giocando in questa maniera, perché nell'ultimo quarto d'ora il Milan non c'era davvero più, e per fortuna sua c'era poco Barcellona, sempre per via di quel terreno e del logorio che aveva causato alle gambe degli uni e degli altri, mica solo del Barça, intendiamoci, anche quelli del Milan. Io credo che invece che abbia giocato una partita saggia e che abbia ottenuto il massimo obiettivo possibile ieri. E poi uno dice, se Robinho butta dentro quel gol al secondo minuto, magari te ne fanno quattro, perché magari a quel punto si svegliano, no? Quindi, dato che il cane dorme, è sempre meglio non andare a sfrucugliarlo. Visto il risultato finale, secondo me è andata bene così per il Milan. Danilo, Genova, buongiorno. Buongiorno Granzini, mi scusi, io volevo due suoi autorevoli pareri su queste due domande. Magari anche non autorevoli, però va bene, va bene. Il suo parere è sempre autorevole, è sempre molto obiettivo e imparziale. Ecco, le volevo chiedere, Allegri ha parlato di partita d'attacco e ha detto che non avrebbe fatto come ha fatto l'Inter due anni fa con Mourinho. Però a vedere il cammino di questo Barcellona negli ultimi, se no, diciamo, mi corregga se sbaglio, negli ultimi quattro anni penso che l'unica partita che ha perso in Champions League è con l'Inter, e l'ha persa in modo con le squadre italiane, difesa e contropiede, cioè come la vecchia Inter di Herrera e l'Inter di Mourinho, difesa e contropiede. E niente, secondo me questo è l'unico sistema per battere il Barcellona, perché sennò ci si va a far male a giocare diversamente. E poi la seconda domanda, niente, ho guardato, osservato tutta la partita Messi, e mi è venuto in mente, a proposito del solito paragone Messi-Maradona, mi veniva in mente Maradona quando giocava contro il Milan, il grande Milan di Sacchi e degli olandesi, e vedevo sempre che Maradona nelle grandi partite si esaltava, mentre Messi fa una fatica terribile contro le squadre italiane e la marcatura asfissiante a uomo. La ringrazio e l'ascolto per radio. Ma se lo marcassero a uomo lei avrebbe probabilmente ragione, o comunque una parte di ragione. A me non sembra che l'abbia marcato a uomo, no? Anzi, lo escluderei. Mi sembra che abbiano attuato una zona con flottaggi vari, con poi lì le terminologie possono essere tante, ma insomma una zona continuamente sempre raddoppiata, una gabbietta, no? Intorno a Messi, che faceva particolarmente fatica ieri sera a cambiare direzione in velocità, ripeto, sempre per via di quel terreno. Dopodiché io ho visto anche delle partite deludenti di Maradona contro alcune grandi squadre, così come ne ricordo di esaltanti, cioè quello che non sbaglia mai una partita, o quello che riesce a essere alla sua altezza, e in questo caso parliamo di altezze siderali, sempre, non è ancora nato e credo non nascerà mai. Insomma, se prendiamo per esempio lo score di Messi contro il Real Madrid, giusto per dire una squadretta qualunque, che fa catenaccio e contropiede da 2 anni a questa parte, no? Per riallacciarmi a questo suo riferimento, a me sembra almeno discreto sto giocatorino, poi può darsi che mi sbagli. Daniele, Roma, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Volevo fare un appunto. A me sembra in questo momento che Allegri abbia poche idee, onestamente. Ha più idee Conte, secondo me. Sì, è vero, il Barcellona si affronta probabilmente solo nel modo con cui ieri ha giocato il Milan, però El Shaarawy l'avrei inserito molto prima. Infatti El Shaarawy, il primo pallone che ha toccato, ha bruciato Piqué sulla corsa, quindi avrei pensato ad un cambio molto molto prima. Un altro appunto è il terreno di gioco scandaloso. A Dani Alves non si reggeva in piedi il primo tempo. Ma non solo lui, erano in tanti davvero che facevano fatica, perché quando il primo problema, e questa è la differenza rispetto ai terreni fangosi o pesanti o zuppi di pioggia, che quando il primo pensiero che tu hai è quello sul tuo equilibrio, tu non puoi giocare una grande partita, perché l'equilibrio deve essere sottinteso, non so come dire. Se invece è una ricerca continua, è durissima. Mi affiderei per la partita di ieri sera a un'immagine molto bella che ha trovato Oliviero Tacchella, e questo non è un caso, un ascoltatore fedele di Pavia, un professor, ma di quelli colti davvero, che si è agganciato a Vinitaly di ieri, alla puntata di ieri trasmessa da Vinitaly, e dice: il Barcellona di ieri mi ha dato l'impressione di uno di quei brut che non vedono l'ora di espellere il tappo col botto, ma sono trattenuti dalla gabbietta di alluminio. La trovo carina molto. Il Milan invece è un buon rosso fermo invecchiato che acquista sentore e profumi se lo lasci un po' a decantare, a prendere ossigeno nel bicchiere. Infatti il secondo tempo è stato almeno un po' più profumato del primo. Sospendiamo per un attimo le conversazioni sul dopo e sul pre, perché poi c'è il ritorno, Milan-Barcellona, e arriviamo a qualcosa di molto più serio, di infinitamente più serio, che riguarda come sempre il calcio italiano. Al capezzale c'è qui con me Marco Belinazzo. Buongiorno Marco. Ciao Gigi. Che è sceso da sole 24 ore, perché? Perché stamane, come forse avrete sentito anche nel giornale radio, sono usciti alcuni numeri da questo report calcio 2012 che si è tenuto a Roma. Io, Marco, te ne sottopongo 2 o 3, anche perché poi dobbiamo tornare oggi rapidamente al calcio giocato. Ma insomma, l'indebitamento complessivo, per esempio, della Serie A nel 2010-2011 è di 2,6 miliardi di euro ed è aumentato del 14% rispetto all'anno precedente. E questo mi sembra, per esempio, uno dei dati. Che dici? Sì, più significativi ce ne sono tanti. Io sono immerso tra i numeri sulla mia scrivania. Ma certamente ne avrai trovati anche di più. Pagine, sì, del rapporto. Di più spaventoso. Avremo modo sia domani sul Sole che nei prossimi giorni anche qui a sviscerare i vari argomenti, perché ce ne sono davvero tanti. Parliamo di numeri. Mi hanno colpito un paio di dati. Parliamo di ricavi medi delle società di Serie A, per esempio, che ci danno un po' l'idea di come ci sia appunto un disequilibrio strutturale, no? Sì. I ricavi medi delle società di Serie A sono stati nella stagione 2010-2011, quindi quella terminata il 30 giugno, di 101 milioni mediamente, quindi vuol dire che una società ha incassato 100 milioni in Serie A, le 20 di Serie A, con diciamo ovviamente l'ampia forbice che conosciamo. Piccole, certo. I costi medi però sono stati pari a 115 milioni, quindi questo vuol dire che strutturalmente le società incassano 10 e spendono 15, e questo ti fa capire perché poi si è determinata questa situazione di meno 428 milioni, che è il dato aggregato sui ricavi, ma è meglio dire le perdite dell'intero sistema del calcio italiano. Una disparità strutturale, un disequilibrio strutturale che si rivela per esempio anche in Serie B, dove le squadre mediamente incassano 15 e spendono 9. In tema e in era di fair play finanziario, questo è molto significativo per farti capire appunto come la gestione ordinaria non sia appunto ispirata evidentemente a criteri di prudenza e di parità tra appunto entrate e uscite. Ma soprattutto un altro dato a volo che ti do è quello che mi ha colpito, relativo al patrimonio netto, cioè a quello che poi dovrebbero essere le riserve, la base su cui costruire il futuro. Ebbene, il patrimonio netto dell'intero sistema del calcio italiano era di 428 milioni di euro l'anno scorso, nel 2010, e oggi di 200 milioni, quindi si è dimezzato del 50%. Mi sembra abbastanza raggelante. D'altra parte, volevo ancora sottoporti questo commento del ministro dello sport e del turismo Piero Gnudi, che era presente a questa riunione, insomma alla notificazione di questi dati, e ha detto: il calcio è una grande realtà, ma io faccio il ragioniere e leggo bilanci molto preoccupanti, e ha aggiunto: in altri ambiti con quei numeri si parlerebbe di società prossime al fallimento. Sì, sono società in cui la continuità aziendale è stata garantita finora da un padrone che ci ha rimesso dei soldi. Tra il 2007 e il 2011, per esempio, citiamo l'Inter, c'è stato un esborso di Moratti in termini di perdite della società di oltre 600 milioni di euro. Questo è un dato. Tra l'altro, Gnudi ha anche detto che diventa a questo punto prioritaria la legge sugli stadi. E un dato molto preoccupante sugli stadi, a parte un calo del 4,4% degli spettatori, è che rappresenta questa voce di introito per le società soltanto il 10% dell'intero fatturato, che è di circa 2,5 miliardi per quanto riguarda il calcio professionistico, a fronte di un costo generale di 2,9 miliardi, ancora per tornare sul concetto di disequilibrio strutturale. Questi dati, che sono il secondo anno che FIGC, la PricewaterhouseCoopers e l'Arel si addestrano nel tentativo di mettere insieme tutti i numeri del calcio italiano, e non solo italiano, perché c'è anche un bel approfondimento poi sulla parte europea, che magari tratteremo nelle prossime settimane, perché va studiato con cura, e pongono la questione, pongono il problema. Da alcuni anni qualche società se ne è accorta, e le campagne acquisti dell'Inter o del Milan al risparmio degli ultimi anni sono una testimonianza più palese di come il calcio stia cambiando, noi qui lo raccontiamo spesso, e dovranno ora, a mio avviso, creare un allarme ancora maggiore nella Lega, che continua da mesi a essere impantanata su sterili litigi e su sterili questioni, su come invece rilanciare il prodotto calcio, il prodotto industriale, che comunque abbiamo detto fattura 2,5 miliardi, non certo bruscolini come direbbe qualcuno. Fatto sta che di strategie di sviluppo, di crescita, per esempio sul piano del marketing e del merchandising a livello internazionale, si parla quasi mai in Lega, e invece dovrebbero essere argomenti all'ordine del giorno della prossima riunione. Della prossima, però, non di tra un po' di tempo. Marco, grazie, preparati in dettaglio, e quando sarai pronto ad estrapolare altre cifre purtroppo negativamente significative, tu sai che... Tra l'altro, scusami Gigi, domani sul Sole spiegheremo come e perché il calcio, il sistema professionistico italiano, contribuisce al fisco per circa 1 miliardo di euro all'anno. Beh, questo... Questo almeno è un dato positivo per le casse dello Stato. Almeno una. Molto bene, grazie allora a Marco Bellinanzo. Noi torniamo nell'atmosfera del dopo Milan-Barcellona ascoltando Guardiola. qualcosa avevamo fatto bene in questi anni, se in Coppa dei Campioni, una squadra che ha vinto 7 Coppa dei Campioni, veniamo qua con 0-0 e sono felice. Una cosa ci siamo meritati in questo tempo, l'ammirazione del mondo. Il risultato non è brutto, perché vincere qua, noi sappiamo la qualità del Milan, ma non segnare in trasferta ci penalizza un po', e adesso sappiamo che soltanto c'è un risultato a favore nostro per arrivare alla semifinale, che vincere, se il pareggio ci metterà fuori, e niente, va bene così. La si veda come vuole, scrive Lorenzo Sala da Monza, ma era dal 4 novembre 2009 che il Barcellona non restava lasciuto in Champions League ed erano 29 partite. È verissimo. Nino Greco incalza dicendo: ma qualcuno lo vuole spiegare a Barcellona che si può far gol anche da fuori area e che non è vietato crossare? Nino, vietato non sicuro, però non serve a nulla crossare ai nani, no? Quando gli altri sono molto più alti, quindi è per questo che il Barcellona rinuncia a questo genere di gioco, a meno che non siano rasoiate basse su cui ogni tanto qualcuno entra, ma non fa parte indubbiamente delle loro abitudini, non fa parte granché, tolto Xavi, il tiro là fuori, nemmeno il tiro là fuori, tant'è vero che ieri sera la prova del 9 che Iniesta fosse in pessima serata sono quei tre tiri velleitari, indegni comunque della sua classe, che ha provato verso la porta avversaria. Massimo, Genova, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scusi se mi intrometto, ma... Intrometto? Sì, nel senso che io sento sempre parlare di questo paragone tra Messi e Maradona, no? Maradona non falliva mai e così via. In realtà Maradona, come ha detto lei giustamente, non è che sempre era ai suoi livelli. Lui arrivò in Italia nell'84-85 e, se ci ricordiamo, vinse nell'86-87 col Napoli. E l'anno dopo, in Coppa dei Campioni, se si ricorda, uscì il Napoli anche perché Maradona non era all'altezza... sbagliò addirittura un rigore contro il Tolosa, se si ricorda. Sì. Quindi insomma tutti i grandi, bene o male, hanno sempre hanno avuto dei fallimenti in occasioni importanti. Fallimenti, hanno avuto dei passaggi a vuoto, perché già usare la parola fallimento, lei la sta usando in senso critico rispetto ad altre tesi, e io sono d'accordo con lei, però è la parola fallimento che non esiste. Io, secondo me, non esistono nemmeno questi paragoni, continui soprattutto, no? Partita dopo partita, sono tra il ridicolo e il patetico, secondo me. Cioè, il paragone può essere fatto una volta per tutte, a fine carriera, quando Messi sarà arrivato a fine, come oggi si fa per Zoff e Buffon, per esempio, e già è intempestivo, perché Buffon, e lo riconosce lo stesso Zoff, è stato più bravo di Zoff in età giovanile, però poi Zoff è stato un grandissimo fino a 42 anni, 40-42 anni quando ha smesso, quindi vediamo come invecchierà Buffon, e poi alla fine si faranno, ma non c'è fretta, no? E invece qua a ogni partita questo deve essere o meglio di Maradona o molto meno, oppure è improponibile, oppure... Io non riesco veramente a capire che gusto ci sia. Stefano Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Concordo con lei, anche se l'intervento era su un'altra cosa. Volevo parlare con lei di questo. Messi, tecnicamente è straordinario vederlo giocare. Sicuramente è una gioia, anche se io tifo per le squadre italiane, a prescindere. Però mi piace il bel calcio, belle giocate. Credo, la sensazione mia è che un giocatore come Messi ogni tanto si risparmi. E secondo me già a Barcellona vedremo tecnicamente anche come un totale lasciarsi andare a giocate ancora più in velocità, perché il Barcellona ieri triangolava bene, ma aveva una velocità molto ridotta rispetto a quella per il campo. Io insisto a credere che dipendesse in buona parte da questo. Poi intendiamoci, il Barcellona di quest'anno non è il miglior Barcellona, e questo ormai è un dato di fatto, perché lo dicono anche i risultati, pur essendo grandi risultati, non sono i grandissimi risultati che il Barcellona aveva ottenuto per esempio nella stagione scorsa e prima ancora. Non è la miglior stagione del Barcellona, certamente non era la miglior versione del Barcellona ieri sera. Iniesta, ripeto, non sembrava il cugino. La stessa scelta di Keita in mezzo al campo anziché Fabregas, insomma, già metteva un po' sulla pista, no? Del fatto che Guardiola sa che questa non è una fase strepitosa. Ho visto il Barcellona in campionato 2 settimane fa battere in casa il Granada 5-3. Sì, bene, 5 gol c'è già abituati spesso a farli, ma prendere 3 gol e tra l'altro arrivare sul 3 pari a un certo punto col Granada, che è uno degli ultimi della pista, 3 gol in casa è un segno abbastanza negativo. Non è certamente il miglior Barcellona, gli mancano anche delle pedine chiave, perché Abidal era una pedina chiave e una pedina chiave più ancora per i gol che faceva, per il movimento e gli spazi che creava, era Viglia, e adesso non ce li ha e quindi deve fare di necessità virtù, come il Milan deve fare a meno di altri. Sentiamo che cosa Nicola Filippone ci ha scovato per questa giornata. Sembra ieri. 29 marzo 1964. Non ha ancora compiuto 18 anni Fabio Capello nel giorno del suo esordio in Serie A al Ferraris di Genova. Ed è una gara da dimenticare. La Sampdoria si aggiudica per 3-1 lo scontro salvezza con la SPAL. La settimana successiva Giacomo Blason, il tecnico che aveva fatto esordire Capello, verrà esonerato. Ma la decisione non servirà a evitare la retrocessione degli emiliani. In quella prima stagione, il giovane centrocampista, una delle tante scoperte del presidente Paolo Mazza, metterà insieme 4 presenze. Parteciperà l'anno successivo all'immediata risalita nella massima serie, guadagnando gradualmente spazio. Nel 1967 la carriera di Capello avrà una svolta, con il passaggio alla Roma. Potrebbe essere il momento di giocare Milan, io credo, per la vittoria finale in Coppa dei Campioni. Perché? Ma perché i bookmakers continuano a non crederci. Ho appena letto le quote SNAI aggiornate, debitamente e immediatamente aggiornate dopo questa doppia serata. La vittoria del Milan è a 16. A 16 mi sembra tanto, sinceramente, dopo aver visto la concorrenza. Il Barcellona rimane la squadra favorita a 2,25 e il Real Madrid a 3,25 col Bayern a 5,50, ma il Milan a 16 mi sembra davvero altino. Boh. Maurizio Verona, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Niente, volevo fare una considerazione veloce sulla partita e poi una domanda. Niente, io ieri ho visto una bella partita sia dal Milan e anche del Barcellona, visto anche il c'è anche il ritorno a giocare. Ho visto bene il Nocerino e anche Boateng e anche Nesto ho visto abbastanza bene. E però volevo fare una domanda su Guardiola. Secondo lei come mai ha preferito far giocare Teo al posto di Fabregas? Non bisogna chiederlo a lui. Ha preferito far giocare Teglio invece di Fabregas perché voleva tenere larghi i crediti difensori del Milan. Intanto Teglio ha 20 anni ma è uno che il suo posto lo tiene già, non so, avrà notato con che personalità è entrato. Poi è stato un po' egoista in un'occasione, infatti Messi l'ha anche guardato di brutto perché non ha provato a cercarlo in mezzo anziché tirare, però è uno che a 20 anni insomma il suo posto lo tiene già. Iniesta andava cambiato evidentemente, le soluzioni erano due, quella più logica, quella più attesa era e forse banale era Fabregas, e lui ha provato invece con un ala, con uno che tenesse più aperto il fronte d'attacco. Può anche darsi che Fabregas non fosse nelle condizioni fisiche migliori, perché questo poi non lo sappiamo, insomma. Sto guardando le designazioni, perché poi adesso torna al campionato, dicevo che sabato col Milan a Catania, 3 giorni dopo il Barcellona e 3 giorni prima del Barcellona, al caldo di Catania, sabato alle 18, insomma, qualche serio rischio lo corre il Milan, secondo me. E non che per la Juventus la partita poi in posticipo di domenica sera sia una partita banale e facile, perché riceve il Napoli e quindi è uno snodo, se non decisivo, uno snodo cruciale per il campionato, questo Catania-Milan e questo Juventus-Napoli, che sono state affidate rispettivamente a Bergonzi di Genova, Catania-Milan, e a Orsato di Schio, Juventus-Napoli. Stefano, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Guardi, volevo sapere se era uno scherzo del mio collega impiegato juventino che ha letto su internet che il Barcellona ha presentato un esposto circa il campo di ieri sera. E poi no, non è, non è una, è una, ha presentato un esposto all'UEFA con, corroborato dal parere del, del funzionario UEFA che era presente, che ha confermato che quello era un campo indegno e probabilmente ci sarà una sanzione per il Milan. Ci sarà anche la possibilità che il Milan giochi magari l'eventuale prossima partita non in casa ma in un altro stadio. No, questo non lo credo, rizzolleranno come stanno facendo da decenni, come probabilmente in questa occasione non hanno fatto, perché comunque un campo su cui la palla corre un po' meno, diciamo che per Seedorf poteva essere un po' meno svantaggioso che per altri. E poi... volevo sapere se è una mia sensazione, ma io penso che le squadre straniere, abbiamo visto ieri sera il Barcellona o anche mi sembra l'Arsenal, tutte queste squadre qui abbiano proprio degli schemi preparati sulle punizioni, sul gioco da fermo, mentre invece noi in Italia ci affidiamo ai soliti, diciamo, specialisti del caso, i vari Pirlo, Del Piero, Totti, lasciamo a loro, no? Mentre loro vedo che chiamano schemi anche sui calci d'angolo piuttosto che sulle punizioni, delle cose bellissime proprio, frutto di ore e ore e ore di studio. Io ne vedo anche in Italia di queste, le dirò. Per esempio, proprio il Catania di Montella ha segnato una percentuale molto alta di gol, credo superiore al 30%, forse più vicino al 40%, che non al 30% di gol da schemi di calcio piazzato, punizioni e calci d'angolo. Quindi non è che qua non si lavori da questo punto di vista, credo che sia una cosa che fanno tutti gli allenatori, poi può darsi che ci sia chi queste cose le coltiva di più o le coltiva di meno. Cosa ne pensa del premio Bearzot a Mazzarri? Domanda Marco. È una domanda che ricorre da parecchio tempo, insomma, su questo display oggi. Penso che sia la prima di una lunga serie di volte in cui il povero Vecio si rivolterà nella tomba. Alessandro da Bari, buongiorno. Buongiorno. Per inciso, volevo dire quanto incida 1-0-0. È sufficiente 1-0-0? Per far pensare che Messi non sia decisivo, ha fatto due gol nella finale di Coppa Campione di un paio di anni fa, quindi questo la dice lunga sull'importanza del risultato sempre a tutti i livelli. Certo. Seconda cosa, non mi è piaciuta moltissimo la telecronaca di ieri, mi sembrava un po' troppo di parte, la vorrei un po' più imparziale. Beh. Il rigore era no, ma non intendo l'enfasi sul gol della squadra italiana. Però, purtroppo siamo in chiusura, deve cambiare fonte informativa, perché finché rimane sulla Rai la retorica a oltranza